Milan, grande Milan, Milan, Milan, grande Milan, Milan, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci, 9-8 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, e voi 800-24-0024 se volete chiamarci. Contattateci anche via WhatsApp al 349-238-6666. C'è la redazione con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, e c'è anche l'Alpino in regia. E allora siamo pronti per una puntata ricca di temi. Ipocrita Milan, non parli della Juventus stamattina, ipocrita, ipocrita, no, ipocrita, perché? Ipocrita, ipocrita, vabbè, giornalista sì. Di due soldi, ipocrita. Ehi, avevamo capito, non ho capito qual è il pensiero che ha questo ascoltatore su di me. Me lo puoi far risentire, Alpino, perché non, mi sfuggiva un attimo l'aggettivo che... no? Ipocrita, ipocrita, ipocrita, giornalista di due soldi, ipocrita. Va bene. Allora, ci siamo, vai Alpino, vai. I will not be easy and it will not be easy. Durissimo. Lo so, ci siamo arrivati alla fine. Purtroppo siamo arrivati a 100 giorni fa, 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dai libici. E sono lì nel silenzio generale, non ci sono proteste, non ci sono manifestazioni, non ci sono bandiere, non ci sono mobilitazioni. 100 giorni imprigionati. Io voglio ricordarli perché non sono persone, 18 persone così, che senza un nome e cognome. Hanno anche un nome e cognome queste 18 persone. Partite da Mazara del Vallo: Pietro Marrone, Onofrio Giacalone, Eddie Bentameur, Elisse Bentameur, sono padre e figlio loro, Mohammed Ben Addada, Habib Matluti, Salvo Bernardo, Giacomo Giacalone, Michele Trinca, Fabio Giacalone, Mohammed Karawi, Vito Barracco, Indra Giri Gunawan, Giovanni Bonomo, Mo Samsudin, Ibrahim Sar, Daf Bavio e Gemmali Fart. Queste 18 persone attendono di essere liberate, attendono anche un po' di attenzione, magari chiedono un po' di attenzione, un po' più di attenzione, e i loro familiari, padri, figli, genitori li attendono a casa. Io saluto Marco Marrone, che è l'armatore del Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati. Buongiorno Marco e ben ritrovato in questa... Buongiorno, ben ritrovati a voi. In questa conta senza fine. Ma è vero che voi a Natale vorrete tornare a Montecitorio a manifestare? Vi state organizzando? Come funziona? Se non sì, verranno noi liberati, ci auguriamo ovviamente di non farlo, guarda, certo, però certo. L'obiettivo è quello, cioè festeggeremo a Piazza Montecitorio tutti insieme con le famiglie dei 18 pescatori. È davvero incredibile questa... Cioè, cosa chiedereste voi? Magari un po' più di attenzione sulla vicenda, un po' più di mobilitazione. Si fanno tante battaglie civili, forse anche questa si potrebbe fare, no? Da più persone. Sì, ma più che altro chiediamo una vicinanza che ci manca da 100 giorni, una vicinanza anche delle persone interessate, del ministro, del presidente, veramente, dico... Ci sentiamo un pochettino abbandonati da tutti. Capisco che lavorano magari con un basso profilo, così come ci dicono, però ogni tanto anche una telefonata di conforto potrebbe far piacere a queste famiglie che aspettano da così tanto tempo. Eh sì, perché ricordiamo, zero notizie dalla Libia. Ora si dice potrebbe aiutarci la Francia. Io voglio salutare e ringraziare anche i giornalisti, i colleghi. Fausto Biloslavo ne scrive sul Giornale, ogni tanto Libero. Due giorni fa il Quotidiano Nazionale ha fatto con Massimo Donelli l'editoriale di prima pagina. Piccoli segnali. Si dice forse la Francia potrebbe aiutarci. Quella è una zona controllata da Haftar, riconosciuta dalla Francia. Ci aiuterà la Francia? Non lo so, Marco Marrone non ha questa risposta forse. Ma speriamo che ci aiuti chi di potere, basta che ci aiutino e che facciano finire questo incubo, guarda. Un canale con Bengasi voi non ce l'avete ovviamente, di nessun tipo, immagino. Marco? È caduta la linea su questa cosa di vabbè ma comunque insomma lo ritroviamo nei prossimi giorni. Noi che dobbiamo fare, io che devo fare qua, più che ricordare che da 100 giorni ci sono queste 18 persone lì a lavorare, vediamo. Lo recuperiamo nei prossimi giorni. Oh, ieri è successa una cosa importante, come raccontano tutti i giornali, ha detto Simone Spezia. Questa vicenda della partita sospesa PSG contro la squadra turca di Erdogan, letteralmente proprio, vale a dire il Başakşehir, sospesa perché il quarto uomo è uno degli arbitri, lo dico per Elisabetta Fusconi, per coloro che non sanno niente di calcio, il quarto uomo non è una figura losca che si aggira, è uno degli arbitri. Il quarto uomo ha detto, indicando all'arbitro, l'ha detto in rumeno, negru cioè nero, indicando all'arbitro un giocatore da espellere o un allenatore da espellere, ha detto quello nero. A quel punto i giocatori neri che hanno sentito questa frase si sono arrabbiati tantissimo, hanno detto perché dici quello nero per individuare un uomo e non dici quello bianco per individuare un giocatore bianco. Da lì putiferio, razzismo, e le squadre hanno abbandonato il campo, eh? Sentiamo. You never say this white guy, you say this guy. So why when you measure me? Listen to me. Why when you measure me? Il giocatore che ha sentito la frase dice: perché non dici giocatore bianco quando vuoi indicare un bianco, invece quando vuoi dire quello nero lo indichi per il colore della pelle? Le squadre hanno abbandonato il campo. E allora a noi è venuto in mente, quando invitammo un paio di mesi fa Lilian Thuram, grande campione, ex campione di calcio, campione del mondo, ha vinto tanto in Italia anche con la Juve, del razzismo lui fa una battaglia, e lui, sentite cosa ci disse riguardo alla lotta al razzismo, Lilian Thuram. Quando succede delle cose contro una persona è aggredito, sono gli altri che devono dare la risposta giusta, non la persona che ha aggredito. E il giorno che i giocatori che non subiscono il razzismo decidono di uscire dal campo, guarda che le cose andranno in fretta a cambiare. Quando arriverà il giorno in cui i giocatori usciranno dal campo, ha detto Thuram, ecco che col razzismo qualcosa cambierà. E i giocatori in questo caso sono usciti dal campo, hanno detto smettiamo di giocare finché non cacciate quel quarto uomo che ha detto questa frase. Interessante. Va bene, dai, parliamo invece di quello che succede in Italia. Io dico solo questo prima di introdurre l'ospite, che oggi ci racconta una storia personale, che è una storia che porta tanti spunti di riflessione. Dico questo: in Gran Bretagna è arrivata la prima dose dei vaccini, tra l'altro stupendo, hanno vaccinato William Shakespeare, c'è un vecchiettino che si chiama William Shakespeare, l'hanno ricevuto con picchetto d'onore all'ora del tè eccetera, e hanno fatto il vaccino in Gran Bretagna prima, perché c'è la Brexit, quindi non dipendono dall'agenzia europea e dalle autorizzazioni europee lì il vaccino. Qui siamo nell'epoca, siamo nel catastrofismo totale. Io non capisco che cosa provino alcuni scienziati, virologi, già la situazione è complicata, a drammatizzarla con delle espressioni che dal punto di vista comunicativo sono disastrose, ve lo dico, sono disastrose. Cominciamo da Galli qualche giorno fa, da Agorà. Galli, dà i numeri letteralmente, ma nel senso che li dà. Altrimenti cantiamo la stessa canzone che è stata cantata più volte, certo. Anche spesso stonando nel periodo estivo. E il mancato rispetto delle note di questa canzone ci ha portato, ahimè, alla ripresa, dalla terribile ripresa autunnale che ha comportato a questo punto, guardi, è un conto che mi fa veramente fatica a fare, ma più di 20.000 morti che avremmo potuto, certo, in larga misura evitare. Capito, qui con l'estate, poi bisognerà raccontare una volta questa grande, vorrei dire, bufala dell'estate e 20.000 morti, quando i numeri sono iniziati ad aumentare a ottobre, magari quando ci siamo ammassati tutti su treni, metropolitane, autobus, quindi non andavamo in discoteca, poche migliaia di persone, ma centinaia di migliaia di persone sono state messe su carri, bestiami, treni, autobus. Forse è quello che ha portato 20.000, non lo so, è la cifra da Galli, morti, più che le discoteche che sono chiuse dal 15 di agosto, però vabbè, 20.000 morti. Crisanti invece? Guardi, ma la terza ondata non c'è bisogno di previsione, è una certezza in questa La terza condizione. Ondata è una certezza. Ricordati che devi morire. Questo modo di comunicare, poi avranno ragione, è disastroso e incide sulla nostra salute mentale, magari non quella fisica, ma mentale. Però io saluto dalla Cina e lo ringrazio per essere qua, il corrispondente da Nanchino per Repubblica, Filippo Santelli. Filippo, buongiorno, buon pomeriggio per te. Buongiorno. Allora, Filippo Santelli ha raccontato letteralmente sui social, per radio, per TV e su un long form di Repubblica che è meraviglioso, se volete andare a recuperarvelo, domenica, la sua vicenda, che io inizierei, Filippo, se sei d'accordo, così. Vai a Nanchino e fanno il tampone, sei positivo. Ecco, iniziamo da lì. Sei positivo, scopri di essere positivo. Che cosa ti succede? Dove ti portano quando sei positivo? Sì, al mio ritorno in Cina dall'Italia mi trovano positivo. Io mi trovavo in un hotel, perché tutte le persone che arrivano in Cina si devono comunque sottoporre a un periodo di quarantena di 2 settimane. Nel momento in cui arriva questo risultato positivo del tampone, immediatamente un'ambulanza mi viene a prendere e io vengo trasportato in un ospedale Covid, una di queste strutture temporanee in realtà che la Cina ha costruito tra gennaio e febbraio, all'apice, al picco della sua epidemia, e che sono fatte di sono delle strutture di temporanee, appunto, della specie di container, sì. E io vengo portato in questa stanzetta di isolamento, una stanza d'ospedale di fatto, molto spoglia, e l'infermiera mi fa entrare e mi chiude la porta alle spalle. Ecco, questo è già il gesto, cioè stanza 3 metri per 6 con porta chiusa ma dall'esterno. Sì, poi va anche detto che questa stanza non aveva luce naturale, perché l'unica finestra che c'era non dava sull'esterno ma dava su un corridoio interno, e il gioco lì funziona così: finché la persona non ritorna a essere negativa, non si negativizza, non esce da quella stanza. E nel mio caso ci sono voluti 40 giorni e io proprio per 40 giorni, il termine quarantena da parte deriva da quello, ma è un caso, sì. Sono rimasto dentro a quella stanza. Adesso si sorride, ma sono stati 40 giorni durissimi, con misurazione della temperatura 3 volte al giorno. Addirittura a un certo punto, Filippo lo racconta, preso da uno scoramento, anche perché non si ha nessun tipo di contatto, arrivano ovviamente solo medici, infermieri totalmente bardati, a un certo punto fai anche un gesto quasi di, come dire, vabbè, volete la temperatura, non ve la comunico, perché eri messo in una chat in cui dovevi comunicare. Che succede nel momento in cui fai questo gesto di ribellione? Sì, una sorta di ribellione alla continua misurazione. È successo che nel cuore della notte, me l'ha già stata misurata 3 volte quel giorno, me l'ero misurata 3 volte, nel cuore della notte alle 2 di notte un'infermiera bardata con questa tuta anticontagio e con una di queste pistoline per prendere la temperatura che usano qui in Cina, mi piomba in stanza e alle 3 di notte me la vedo arrivare sul letto, io mezzo addormentato mi sveglio di soprassalto e lei mi ha misurato la temperatura. Quindi il messaggio era: non vuoi mandarci la temperatura, noi ce la mettiamo a prendere. Sì, ovviamente questo raccontato attraverso pasti e cibi che vabbè non so, cibi da ospedale, ecco, da ospedale più cinese, ecco, magari non quindi il massimo della vita, però il tema di fondo che Filippo Santelli racconta è un tema molto interessante. Leggo da quello che tu hai scritto: se tornerò negativo in poco tempo, meglio per me. Se ci vorranno 2, 3, 5 mesi, non importa, la mia salute verrà sacrificata per una salute superiore, quella del corpo sociale nel suo complesso. Qui c'è il grande tema, Filippo, libertà, qual è il confine della libertà personale e quella della salute sociale? Il tema del rapporto tra individuo e collettività, questo me l'ha detto proprio una dottoressa, quando io all'inizio sono entrato ho chiesto alla dottoressa: ma di solito quanto ci mettono le persone per negativizzarsi? E lei mi ha risposto: ma ci possono mettere, c'è chi ci ha messo un mese, chi ci ha messo 50 giorni, ci sono state anche persone che sono rimaste qui dentro 3 mesi. E me l'ha spiegato, me l'ha detto proprio esplicitamente, mi ha detto: lo sappiamo che noi togliamo la libertà e sappiamo anche che certe persone qui dentro hanno avuto dei problemi psicologici, sappiamo che non è un ambiente ideale per il benessere, ovviamente ti curano, la Cina mi cura e mi ha curato e mi avrebbe curato se io mi fossi aggravato, però nel momento in cui io sono risultato asintomatico, ho superato il ciclo della malattia, comunque avrei dovuto aspettare di negativizzarmi, aspettando il numero di giorni necessario, perché il concetto di salute, il punto non era tanto a quel punto proteggere me, ma era proteggere la vittoria sul virus e la salute del popolo che stava fuori, che la Cina è riuscita a liberare dal virus. Cioè il tema proprio è questo, sì, ti curavano, ma non è stata una tua libera scelta, cioè quella porta chiusa dall'esterno è molto significativa, cari ascoltatori, cioè può dar adito a molte riflessioni, cioè non era stata una scelta tua, magari giustamente, la porta chiusa dall'esterno, cioè fa suonare tutto come una sorta più di carcere, tu lo scrivi anche a un certo punto, è un ospedale o anche una sorta di carcere, forse tutte e due le cose. La Cina ha improntato la battaglia col virus al principio del rischio zero. Quando io ero in isolamento in hotel, comunque non potevo uscire dalla stanza, però la porta era aperta. E quindi lì c'era ancora un filo di fiducia, di responsabilità, di fiducia nelle autorità, nella mia collaborazione. Nel momento in cui io sono positivo, la Cina non si può più, non si vuole più permettere quel grado di fiducia. Per questo mi chiude la porta alle spalle. Sì. Il tema, e vado a leggere ancora cosa hai scritto, tu hai scritto su Repubblica: a volte vorrei avere qui davanti un cinese qualunque per dirgli quello che penso, probabilmente era un momento di difficoltà, gli direi che in Occidente abbiamo la libertà, per cui non si può chiudere a chiave un cittadino in una stanza, ma so già cosa mi risponderebbe, noi chiudiamo in una stanza, in una casa, ma da voi litigate per le vacanze di Natale, e poi mi direbbe: in Italia 53.000 morti, in Cina 4.600, e allora il diritto alla vita non è più importante. Tu sei, da questa esperienza, se ne sei uscito ora, che risposte ti dai a queste domande che tu stesso poni? Ma io innanzitutto riconosco la forza degli argomenti che questo cittadino cinese ideale mi propone. Va detto anche una cosa, che la maggior parte dei cittadini cinesi è stata a casa, ha seguito le regole perché era convinta di farlo. Cioè non, il fatto che la Cina sia un regime autoritario non vuol dire che ha usato solo degli strumenti autoritari. No, c'è stata una collaborazione dei cittadini, c'è stato un rispetto delle regole. Poi ovviamente ci sono, nei casi più eccezionali, nei casi in cui sono necessari, ci sono gli strumenti di un regime che usa modi bruschi o modi illiberali. Cioè, traducendo, per chi non vuole rispettare le regole, gliele fanno rispettare comunque. Sì, dalle ecco, ci siamo giornate di Wuhan, dalle prime giornate di Wuhan, in cui tiravano le persone fuori da casa, se non volevano mettersi in isolamento, le portavano in isolamento forzato. Io ne esco, però cercando appunto di comprendere questa logica e con la convinzione che non esistano soluzioni assolute, cioè noi siamo alla ricerca di ricette facili, no? Anche ricette rapide, per della ricetta magica per contenere questo virus, e io ne esco un pochino convinto che ogni ricetta debba essere calata su un contesto sociale, culturale, economico, politico. Cioè, se no, è chiaro che lo stesso tipo di misure che ha adottato la Cina, ma la maggior parte di quelle misure non sarebbero accettabili in Italia, non sarebbero accettate, lo sono in Cina. In Italia magari possiamo capire i principi che la Cina ha usato, quelli sì, magari sono validi, e provare a capire come adattarli al nostro contesto, che per fortuna è un contesto di una democrazia liberale. Sì, e che però questo comporta questa libertà inevitabilmente, che qualcuno la libertà la utilizzi male. E solo che mentre in Cina questo si combatte in maniera repressivo, in maniera repressiva, da noi no. Per carità, cari ascoltatori, non è che possiamo dire è giusto o sbagliato, siamo abituati così, Filippo, a dare una risposta, e anche scrivi questo, una risposta immediata. Ma allora chi ha ragione? A volte non si può dire o bianco o nero. Posso dire di aver visto proprio questi due campi, no? Man mano che raccontavo anche sui social, tutti i commenti che mi arrivavano erano o guarda la dittatura cinese, sì, cioè è un carcere, è una prigione. Oppure fanno bene. Oppure, dobbiamo fare come i cinesi, loro non hanno. Noi abbiamo avuto 40.000 morti e loro 5.000. Sono due argomenti altrettanto validi, in cui io ho sempre provato in qualche modo a stare in mezzo e a spiegare, se non altro a provare a capire, a far capire perché la Cina e con che logica la Cina fa determinate cose. No, ma tu giustamente dai una risposta articolata, ecco. Io vedo che anche gli ascoltatori in diretta dicono, si schierano tra viva la Cina e chi dice ma come, prendiamo lezione dalla Cina che è una dittatura. Come vedi, quindi è una rappresentazione esatta di quei messaggi che arrivano anche a te. Se posso, comunque esistono anche degli altri modelli, cioè se vogliamo qui stiamo un po' ai due estremi, cioè esistono dei modelli di democrazie liberali che hanno contenuto il virus con molto più successo, anche di democrazie asiatiche che hanno contenuto la Corea il del virus Sud, con per esempio, certo. Corea del Sud e Giappone, sì, esatto, Taiwan. Filippo Santelli, io ti ringrazio, ripeto, corrispondente da Nanchino per Repubblica. Adesso su cosa sei? Perché attenzione, non sei più positivo, però hai iniziato una quarantena morbida, questa in hotel, cioè 14 giorni, ma sono finiti? Sono finiti questi 14 giorni? Stanno per finire dopo domani, perché dopo i 40 ancora 2 settimane in isolamento. Quindi in realtà non sei ancora fuori, sei in un albergo, no, ma non puoi lasciare la stanza. Accidenti, ragazzi. Esatto. Però la porta è aperta. Però la porta è aperta, vabbè, io ti consiglierei comunque di non farlo, perché non si sa mai, Ringrazio Filippo Santelli, corrispondente per Repubblica da Nanchino, che è comunque, ripeto, leggete su Repubblica, lo recuperate, tutto il racconto è molto intenso, anche psicologicamente duro, perché pensate 40 giorni in una stanza 6x3, con nessuno sbocco, con una finestra sull'esterno e quindi nessuna luce naturale, con misurazioni della temperatura a ogni piede spinto, con la porta chiusa dall'esterno, come dire, uno non può neanche fare 2 passi in corridoio. Questo è il metodo che è stato utilizzato in Cina e funziona dal punto di vista del contenimento dell'epidemia, è inevitabile, funziona, che c'è che dire, non c'è che dire, funziona. Va bene, chiamateci 800 24 00 24, un attimo di pubblicità. 1 nessuno 100 Milan. Sconfitta a tavolino per entrambe le squadre e squalifica anche dai per il quarto uomo, ma sconfitta per entrambe le squadre a tavolino. Ma perché? Ma perché? Una volta che uno fa un gesto di senso civico, sconfitta, ma io non lo so. Milan, ma io mica mi offendo se mi dicono quella donna bianca. Solo che non glielo dicono. Bravo Milan. Milan virologo ed epidemiologo ci mancava. Milan, dalle tue soluzioni che sai tutto. Dai Milan, esprimiti. Quindi cosa bisogna fare? Riaprire tutto e far finta che non esista niente. Così se facciamo finta che non esiste, non esiste più niente, o no? Eccolo là, quello che ragiona per Bianco ha due neuroni. Oggi è acceso quello del A, domani mamma quello del B. A o B, o A o Z. Risponde Manera, il professor Picchio Manera. Buongiorno Leonardo. Guarda, buongiorno. Già a sentire inizio la trasmissione mi ha fatto arrabbiare stamattina tantissimo. Perché? Guarda, non ne posso più. Io, questi professori, no, Crisanti e Galli e tutti i virologi saranno bravi nel loro lavoro, saranno esperti, sapranno tutte le cose che noi ignoranti. No, facciano un corso di empatia questi qua, facciano un corso di empatia, perché altrimenti facendo così sortiscono esattamente l'effetto contrario. È inutile che vogliano continuare a fare la lezioncina col dito puntato, a dire che noi ci comportiamo male e a fare previsioni terza ondata, quarta ondata, moriremo tutti. Facciano un corso di empatia perché saranno bravi nel loro lavoro, ma come comunicazione fanno schifo. Sì, no, ma io dico questa Repubblica del tampone, dove il tampone è diventato un feticcio, il feticcio del tampone, come se fosse una pala d'altare. È strano perché c'è stato il ponte, quindi dovrebbe essere un po' più sereno il buon Leonardo Manera. Vedi che ti fa male riposarti, tu devi lavorare, devi lavorare. Il tampone, adesso hanno preso chiunque passava per strada, mettono a fare i tamponi, il naso è una struttura delicata, ha fatto fare il tampone dopo aver fatto la giusta formazione. Non è che prendi tutti e li metti a infilarti il bastoncino nel naso così. Sono tutte cose che vanno anche considerate. Sì. E questi ci dicono che arriva già la terza ondata, che avremo più morti di tutti. Va bene, continuate così e avrete esattamente l'effetto contrario a quello che vorreste avere. La migliore di queste dichiarazioni, la migliore si fa per dire, è quando di recente il professor Ricciardi ha detto: questo virus è poco letale. Parole sue al Forum della Salute Globale. Questo virus è poco letale, ma potrebbero essercene altri in futuro. E se non cureremo l'ambiente, esso risponderà portandoci all'estinzione. Testuale. Allora io dico, io non so, non ho ricette, perché al contrario di 60 milioni di italiani che hanno ricette, io non ho ricette da dare. Dico e ribadisco che non dal punto di vista medico, ma questo modo di comunicare, avete capito, magari di comunicazione un pochino me ne intendo, un pochino, questo modo di comunicare è disastroso, che non vuol dire che allora il modo di comunicare è andate in giro tranquillamente, tutto finito, trallallero, trallallà. Non ho detto questo, ho detto che arriveremo all'estinzione, moriremo tutti, sarà terribile, ci sarà la terza ondata, saremo un disastro, saremo con quelli più morti in Europa. Questo modo di comunicare mette un'ansia pazzesca. Ecco. Il risultato qual è? Che quasi tutte le persone che io conosco non vogliono più saperne i numeri, non guardano più i telegiornali, sono esasperate e esattamente è l'effetto contrario a quello che i virologi vorrebbero ottenere. Quindi se volete un effetto contrario, se davvero volete liberi tutti, che a voi fa tanto schifo, continuate a comunicare così e otterrete proprio liberi tutti. Questa è la mia idea, questa era sbagliata perché io sono ignorante, però non ne posso più. Ignorante cosa... in medicina. Comunque Gianluca da Sassari, sentiamo gli ascoltatori, ci vorrebbe un po' di Cina a te caro Manera, un po' di Cina, certo. Ma no, è caduta la linea Gianluca da Sassari, andiamo da Torino, Marco da Torino, buongiorno. Marco, pronto? Pronto? Eccoci, pronto. Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Niente, io volevo raccontare un attimo la mia storia in maniera molto molto breve, facendo riferimento a quel signore che ha vissuto la stessa situazione in Cina, no? Mm-hmm. Chiaramente con risvolti decisamente più drastici ma efficaci. Dunque, noi praticamente agli inizi di novembre, con alcuni sintomi classici eccetera, insomma arrivo al dunque, facciamo il tampone, siamo positivi. Tutti e cinque in famiglia, sia i ragazzi, sia mia moglie, eccetera. Bene, sentiamo un medico curante che ci mette in quarantena per per 14 giorni, così facciamo, fino al successivo tampone che eseguiamo e anch'esso risulta positivo. Chiaramente risentiamo il medico curante, a cui dobbiamo fare un elogio in quanto era pazzesco riuscire in quel periodo a fare i tamponi perché il sistema era bloccato, eccetera. Infatti è stato al computer 4 ore, insomma una cosa bene. Facciamo un secondo tampone, il secondo tampone risulta positivo anch'esso. Allora sentiamo il medico curante, il che ci scrive una mail dicendo: bene, allora avete ancora 7 giorni di quarantena, dopodiché non è previsto un terzo tampone e se non avete sintomi praticamente siete, io ho usato l'eufemismo dicendo scarcerati, siete liberi. Sì. Ecco, questo è quello che è capitato. Io l'USCA l'abbiamo sentito una volta, tra l'altro il mio l'USCA medico sono quelle unità speciali che fanno l'assistenza a casa. Esatto, noi non abbiamo praticamente ricevuto una telefonata 15 giorni dopo il primo tampone, cui il nostro medico curante scherzosamente ha detto: bah, qui si è svegliata bella addormentata, eccetera. Insomma, non una pressione come in Cina, ma che effetto le ha fatto sentire il racconto dalla Cina, dove ti prendono, portano in una stanzetta, stai lì finché... L'effetto che mi ha fatto è sicuramente una gestione più seria e responsabile, perché noi ce la siamo autogestita, nel senso siamo stati a casa, siamo stati in quarantena, ancora adesso, perché non avendo il terzo tampone, io sono donatore Avis, mi è stato detto: guardi, finché lei non ha il terzo tampone negativo, lei non può più donare. Però ha sentito, seria, responsabile e anche coercitiva quella che è la gestione della Cina. Perché io l'ho gestita, noi la stiamo gestendo in questo modo, nel senso che siamo distanti dai nostri anziani, eccetera, perché eccetera. Siete responsabili. Però chi può anche non esserlo, può andare beatamente in giro, eccetera, e continuare. Cioè, io lo trovo un discorso un po' psicologicamente pesante, nel senso che noi ci sarebbe anche piaciuto avere la prova che eravamo negativi, poi i nostri sintomi che non ci sono stati, i ragazzi sono stati asintomatici, eccetera, noi non abbiamo avuto febbre. Ma è chiaro, ma guardi, neanche Filippo Santelli, che è stato 40 giorni lì, è stato totalmente sempre asintomatico. Semplicemente in Cina hanno detto: finché tu non hai due tamponi positivi, c'è una responsabilità sociale, nel senso, come dicevi tu. Sicuramente il risultato, dice Filippo Santelli, è stato raggiunto. Lui si interroga da uomo occidentale, quindi da uomo. Che voglio dire, ha anche il valore della libertà in primo piano, dove sia il confine tra la libertà personale e quella della salute sociale. È un tema interessante e ripeto, non c'è una risposta o sì o no, non ve la daremo noi, io non la do. Tu, Leonardo, hai una risposta? Sì o no? La risposta è sempre quella dei costi e benefici. Bisogna considerare quanto, secondo me, è letale questo virus e se la letalità del virus vale la privazione della libertà personale. Io lo penso così. È un tema molto, molto dibattuto, insomma. Diteci la vostra. Se ce la facciamo a sentire Massimiliano dalla provincia di Pavia, traffico. Massimiliano. Sì, pronto. Buongiorno. Eccoci. Milan. Sì. Eccoci. Allora, io ho chiamato per il mio pensiero. Ecco. Sì. Secondo me la democrazia legata a queste necessità, o comunque sia questa pandemia, questa problematica, è stato un fallimento, nel senso che purtroppo il regime, che poi non è quello che tutti intendiamo, secondo me, perché noi non abbiamo mai vissuto sotto un regime, quindi non sappiamo realmente cosa voglia dire stare sotto un regime. Ci facciamo delle idee approssimative su quello che è un po' la storia d'Italia. Mm-hmm. Però quando c'è una problematica così importante come la salute altrui, secondo me nessuno che crea delle leggi di un certo tipo è cattivo. Sì. Non si entra con la cattiveria, si entra con l'idea di cercare di fare in modo di salvaguardare più persone possibili data la problematica che si è sviluppata. Sì, sì, no, non è cattiveria, cioè non è che in Cina sono cattivi, Massimiliano. No, devo andare al traffico È perfettamente chiaro, cioè lei lo traduco così come messaggio, dice forse è meglio il bene superiore, quindi anche avere misure alla cinese, la traduco io, piuttosto che la democrazia, che consentendo la libertà non ci porta a stroncare questa epidemia. Oh, dite la vostra, andiamo. Uno, nessuno, 100 Milan. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Certo che è meglio la Cina, sicuramente è meglio di Conte. Infatti Milan, chi è che ha le siringhe pronte per i milioni, miliardi di vaccinazioni? I cinesi e gli americani. Buongiorno Milan, da domani metti l'inno cinese al posto del, di quello russo. Grande maniera, mi piace vederti così incazzato, vai avanti tutta. Arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. Allora, c'è una sfida Luchetti, Leonardo, prima di darti la parola, una sfida Luchetti incredibile. Un ascoltatore, ascoltatrice scrive: stamattina ho saputo che in Val d'Aosta non potranno sciare se non i veri atleti, quelli. Mentre a Ponte di Legno, quindi in Lombardia, potranno andare tutti, basta avere un bimbo iscritto allo sci club, quindi non un atleta, secondo l'ascoltatore, che si potrà sciare. Avete notizie di queste differenze? Sfida Luchetti, vai Leonardo, sfida Luchetti! Allora, questa era la fine. La fine, praticamente volevamo andare al giornale radio. Tutti conosciamo la parabola dei talenti. Il padrone di casa deve partire, allora affida 5 talenti a un primo servitore, 2 talenti a un altro e un solo talento a un terzo servitore. Quando torni, i primi 2 hanno fatto fruttare i loro talenti, il terzo lo ha sotterrato e glielo rende tale e quale. E viene sgridato proprio perché non ha incrementato il piccolo capitale che gli era stato affidato. Mario Balotelli è stato ingaggiato dal Monza dopo aver girovagato in molte squadre italiane e straniere ed essere, anni fa, anche approdato in nazionale, mostrando a tutti, in occasione di quel famoso gol, il suo fisico scultoreo che non pochi turbamenti provocò nel pubblico femminile. Quello che normalmente si dice di Balotelli, l'ho sentito ripetere qualche giorno fa anche da Galliani, è che appunto fino ad ora non ha saputo mettere a frutto nel modo adeguato il suo talento. Adesso Balotelli andrà al Monza. Ma siamo sicuri che sia stato davvero così? Siamo sicuri che quella di Balotelli non sia stata una scelta consapevole? In un mondo dove ormai tutto è competizione, dove la regola è non mollare mai, dove c'è gara anche per cucinare, dove se qualche concorrente a Masterchef nella carbonara al posto del guanciale mette la pancetta e viene sgridato come se avesse commesso un omicidio, quella di Balotelli potrebbe essere una scelta controcorrente tutt'altro che da criticare. Balotelli ha raggiunto alti livelli nel calcio, anche se sei dotato, non arrivi in Serie A se non fatichi, ma a un certo punto può aver pensato di godersi la vita. Quindi la filosofia di Balotelli, il balotellismo, potrebbe essere un atto rivoluzionario contro la retorica del dover dare sempre il meglio, dell'essere sempre performanti al massimo, contro la retorica del non mollare mai. Pensate che bello se quella di Balotelli diventasse una regola di vita condivisa. Basta stress, basta ricevere ogni mattina sul telefono gli obiettivi da realizzare, basta sentirsi in colpa se non si è dato il massimo. Il balotellismo, o se voglio andare un nome più accattivante, la New Balo Philosophy, insegna che si può vivere felici anche dando la metà. La felicità del vivere sfruttando a metà il talento che ognuno di noi ha. Sii felice dando la metà, realizzando a metà gli obiettivi di vita e soprattutto senza sensi di colpa. Certo, direte voi, Balotelli ha comunque uno stipendio milionario che glielo permette, ma anche molti di noi hanno uno stipendio che ci permette di vivere lavorando anche scrupolosamente, però dando la metà, senza ansia da prestazione. Poi invece ci sono persone che si affannano per accumulare denaro quando il loro conto in banca già trabocca di dobloni. Basta sensi di colpa, basta notti insonni, basta arrabattarsi per dare sempre il meglio. C'è una parte di vita che urla forte: segui Balo, segui la Balo New Philosophy, dai la metà per gratificare il resto della vita, passeggiare, chattare, chiacchierare di cose poco importanti. perdere tempo, avere hobby che non producono niente, collezionare tappi di sughero, guardare i fili d'erba che crescono, fare bagni nella vasca finché l'acqua si raffredda e al bar prendere solo caffè lunghi da bere con calma. Ecco, la Balo New Philosophy insegna probabilmente a fare tutto questo. Lui, Balo, è perciò un rivoluzionario in un mondo dove tutto è gara. Balo, che è milionario, lo può fare ad alti livelli spendendo molto denaro, ma anche noi lo possiamo fare nel nostro piccolo. E alla fine ci chiederemo: cosa ho combinato nella vita? Niente, o poco di pratico, perché con la Balo New Philosophy non si ottengono grandi risultati, ma forse si ottiene grande serenità. E siccome anch'io voglio dare la metà, il pezzo di oggi lo finisco qua. Però, allora, caro direttore del personale, oggi stipendio a metà per Leonardo Manera. No, però bellissima questa cosa, effettivamente tutti a dire è un talento sprecato Balotelli, ma forse lui è contento così. Ma viva Balotelli, non è tutto gara, non è per forza arrivare al massimo. Puoi vivere sereno, tranquillo, contemperando le esigenze poteva di vita. Poteva fare di più, se no, si fosse impegnato. È diventato comunque milionario, è arrivato in nazionale, ma cosa vuoi di più da Balotelli? Sì, attenzione, sfida Luchetti, è complicata, ma comunque, buongiorno, ci risponde un maestro di sci di Ponte di Legno. Io credo ai miei ascoltatori, quindi se mi scrive così, io credo ai miei ascoltatori. Sono un maestro di Ponte di Legno. Questo è il messaggio del presidente dello sci club e della scuola sci. Vi comunico che ci saranno piste aperte solo per gli allenamenti degli sci club. Mi raccomando, possono andare solo gli allenatori degli sci club durante le ore di allenamento. Noi maestri no. Anche se qualcuno ha la tessera della federazione, ne abbiamo parlato anche tra scuole locali, siamo tutti concordi nel seguire le linee indicate dalla federazione. Quindi i maestri non possono andare. Possono andare quelli che devono fare gli allenamenti degli sci club. Però i genitori, la domanda, maestro, il genitore può accompagnare, credo, il bambino di 8 anni dello sci club? E se lo accompagna, cosa fa in quel momento? Non potrà sciare, ma rispetterà questa può regola. Portare gli sci, può portare gli sci al figlio e fargli mettere gli scarponi, sì, faticando e sudando. Vabbè, Manera dà sempre la metà. E con questa di un ascoltatore andiamo al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Sorry, 1, 2, 3, 4. Perché oggi mi sento in forma, felice, ho voglia di fare. Ho bisogno un po' di amarezza per abbassare i toni. Ti prego, dammi un po' di amarezza. Manera, sono cattivissimi, perché tu soltanto il venerdì dai la metà di quello che avevi dato giovedì, che era la metà del mercoledì, della metà del... Oddio, ho perso il conto. Bravissimo Manera, mi è piaciuto molto il tuo pensiero, lo condivido, bravo. Grande Manera, io del balotellismo ne ho fatto una ragione di vita, sempre gas al minimo. Certo, c'è anche un padre disperato che ha detto: con questa filosofia, se ti ascolta mio figlio è un disastro. Cioè, tu stimoli le persone a non dare il 100%, anzi il 110%. Diciamo che, quello sicuramente. Come? Parlavo con persone distrutte dal fatto che ogni mattina ricevono dal capo sul telefono, appena si svegliano, gli obiettivi della giornata. Gli obiettivi, questa è una cosa che ti distrugge. Ti distrugge. E poi tu per esempio, non hai un capo che fa così, non hai un capo, quindi non è che... No, grazie a Dio non ce l'ho. E poi stimolo a evitare la competizione eccessiva su tutto, perché diventa una vita d'inferno. Io stimolo a collezionare tappi di sughero. Ma fermandosi a metà collezione, potresti finirla, però dici vabbè. Adesso l'album di figurine, il balotellismo, bello questa cosa, il balotellismo. Il balo filosofi, sì. Posso dare tutto, ma faccio quello che mi va, mi fermo quando faccio voglio. Il giusto. Non è che mi faccio quello che devo senza competere eccessivamente a tutti i costi. Benissimo, io conosco benissimo. Persone che hanno fatto così, tra l'altro, e sono felici. Va bene. Allora, quindi abbiamo, vedi che non è vero che non diamo mai delle ricette. Mario Balotelli è felice così. Ecco, questo lo abbiamo decretato a uno nessuno 100.000. Senza dire pensa, Balotelli avrebbe potuto. Come non ne può più ogni volta, poteva dare, poteva fare di più, poteva diventare. Ma lui è felice così. Io mi ricordo una volta. Bravo, Balo. C'era una quando giocava nel Milan, fecero un'intervista dopo partita e c'era Marocchi, credo. Te lo ricordi Marocchi, ex calciatore, ha detto mediano. Tu secondo me fai così, e Balotelli dice: secondo me tu non capisci niente di calcio. Marocchi, no? E poi gli ha detto: ma scusa, ma tu sei un campione? Fa: io non sono un campione, questo lo dite voi, che sono, io sono un giocatore di calcio. E quindi c'era già la filosofia: non sono fuori classe, non mi interessano queste cose, questo interessa a voi. Io... Oh, ma pensa che bello se fosse un mondo così, dove ognuno non si prende troppo sul serio, dove ognuno non vuole arrivare a essere il primo per forza. Allora, signori, adesso, caro Leonardo, voglio farti ascoltare qualcosa. C'è da dire, la nostra redazione, il nostro Lorenzo Nespoli in questo caso ha scovato qualcosa tra gli atti parlamentari. Io non ci volevo credere, gli ho detto: ma sei sicuro, Lorenzo, che non sia una bufala? Invece abbiamo controllato. Atti parlamentari, proposta del deputato Jacopo Morrone di Forlì, della Lega e altri, e in una unione bipartisan. Che cosa hanno proposto? Te lo faccio ascoltare intanto in musica. Sento la nostalgia del passato. Proposta alla Camera dei Deputati numero 2766 dell'onorevole Borrone e altri, signori, onorevoli colleghi, la canzone Romagna Mia, una delle canzoni più note al mondo, è stata scritta più di 100 anni fa e la sua musica conserva ancora oggi un'energia e melodia che hanno impatto fortissimo sul pubblico. Insomma, tutto ciò premesso, che Romagna Mia diventi, secondo la Repubblica, espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo dell'Italia, e che dall'anno prossimo venga insegnata in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella a casa. E c'è anche all'articolo 2,2, caro Leonardo, un'indicazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che si sa vogliono fare i furbetti, il cui territorio ci sono minoranze linguistiche riconosciute, provvedano all'attuazione di quanto disposto al comma 1, cioè far insegnare anche nelle scuole di lì Romagna Mia. No, perché no? È vero, alla fine, è vero. Ma nelle scuole, ma dai. Ma sì. Perché? Ma scusa, invece di fare quelle musichette col flauto dolce, l'inno d'Italia. Invece di fare il flauto dolce, che è una cosa che compriamo per le medie. Scusa. Ma è vero, sono i valori fondanti della Repubblica Italiana. Ho capito. Ma anche allora a Napoli avrete una canzone, non so, O Sole Mio, a Romagna Mia, O Sole Mio. Ma facciamo anche O Sole Mio. Cioè, riconosce Romagna Mia quale espressione popolare dei valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo. Bisognerebbe analizzare meglio il testo, a parte Romagna Mia, Romagna in fiore. Dovremmo invitare l'onorevole Borrone domani, Sì. Adesso oggi andrò a guardare bene il testo e quello che dice. Sì. Questo dice: vorrei tornare. I valori della patria, della casa. della società ma familiare. Da insegnare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a Bolzano. Questi sono i lavori. Romagna, via! Romagna, fiore! Devi a Bolzano i bambini cantare a Merano. Cioè, ma cos'è sta versione napoletana? Qui dice anche amica anche al sud. Vabbè, questa è la proposta. Non so, andiamo al traffico. Non credo che farà molta strada in questa legislatura, però vedremo. Uno, nessuno, 100 Milan. Manetta e vai! Rock duro! Ma che bella musica stamattina, da ottimismo, bravi! Ma quale Romagna mia? Tocca a noi, Alpino? Allora, adesso abbiamo detto questa proposta di legge per considerare Romagna Mia patrimonio culturale italiano. Adesso vedi, parto Roma Capoccia, ce n'è una di Udine, non mi azzardo nel dialetto, Vecchio Scarpone, c'è chi dice ogni regione ce l'ha, certo. Ogni regione ce l'ha. Pensa, un ascoltatore da Ariano Irpino, caro Manera, ho dovuto suonare Romagna Mia col flauto dolce alle medie, da Ariano Irpino. Vedi che allora Carmine ha ragione, insomma. Flauto dolce, questo strumento nato per le scuole medie, chissà sì. Se esisteva anche già prima delle scuole medie. Non lo so. Secondo me con la creazione delle scuole medie... Vecchio Scarpone, vabbè, adesso ce ne abbiamo tutte adesso. Prego, prego Leo. No, dicevo che chissà se con le scuole medie è nato anche l'uso del flauto dolce. Non lo so, plastica. Non lo so. Vorrei una curiosità, Miriam Lucchetti. Vediamo, controlla. Sfida Lucchetti. Esiste il flauto dolce in materiali che non siano la plastica? Ma c'è il legno forse, il legno. Secondo me è solo il flauto traverso. Il flauto dolce è in plastica per farlo comprare alle medie. C'è il legno. Ma non si usa più il legno, non secondo lo producono più da Io lo ricordo, mio fratello l'aveva in legno. Impossibile, il flauto dolce è solo in plastica. Adesso dici, ma non lo so. È un tema, è una sfida Lucchetti, vai Lucchetti. Intanto noi parliamo di cose un po' più serie con gli ospiti. Vedi, Miriam Lucchetti dice io l'avevo in legno alle medie. Ho capito Miriam, ma si parla di lustri Miriam fa. Lucchetti ha una certa età, sì. Effettivamente. Va bene, salutiamo la professoressa Anna Odone che è con noi. Buongiorno professoressa, stia tranquilla che parliamo d'altro con lei. Buongiorno. Buongiorno a voi. La professoressa Odone insegna igiene all'Università di Pavia. Tra l'altro, curiosità che ha attirato anche l'attenzione dei giornali, è il docente ordinario più giovane d'Italia. Vabbè, questa è una cosa interessante, no? A 35 anni immagino le farà piacere, insomma, anche di aver fatto questo record. Allora, lei si concentra soprattutto sui bambini, la fascia più delicata, per cercare di spiegare loro in questo momento come ci si deve comportare. Per esempio, so che ha inventato anche un cartone animato per cercare di spiegare che cos'è il coronavirus ai bambini, cioè... Ma no, guardi, io non ho inventato un cartone animato. Essendo medico igienista, durante il lockdown ho avuto così la sensazione che la vita dei bimbi fosse stata in qualche modo rivoluzionata, nel senso che oggi e domani sono stati a casa da scuola per oltre 4 mesi e credevo fosse doveroso spiegare loro perché questa rivoluzione nella loro vita. E quindi all'epoca il cartone è stato uno strumento attraverso il quale trasmettere i messaggi che sono gli stessi che noi trasmettiamo a lezione all'università, nelle conferenze, nelle ricerche. Per cui tra l'altro il cartone è stato realizzato gratuitamente dallo studio Manga Animation, quindi c'è stata una collaborazione sincera di chi fa cartoni animati, ma le competenze, i messaggi sono stati quelli nostri, quindi scientifici. No, ma è chiaro, perché si dice i bambini apprendono molto, però non è facile spiegare a bambini piccoli che devono lavarsi le mani, tenere la mascherina, magari si sa, non è proprio... Come si fa? Dunque, allora, i bimbi, poi probabilmente chi ci ascolta è a figli più sensibile, i figli gli abbiamo detto a scuola non si va. Adesso gli stiamo dicendo a Natale non vediamo i nonni, lo sport non lo fate, e secondo me è fondamentale che loro capiscano perché, diciamo, dovete mettervi le mascherine, stare distanti a un metro, più di un metro dai vostri compagni, dobbiamo dire perché? Perché il coronavirus è un virus che si trasmette in un certo modo, per cui con il vostro comportamento voi stessi potete contribuire a far sì che questa situazione torni a una normalità. Io credo molto, io faccio professore all'università, quindi insegno all'università e parlo nelle conferenze, ma credo molto che la responsabilità nostra sia anche quella di comunicare in questo caso ai bambini che sono stati molto impattati, vediamo l'impatto che c'è stato sulla scuola. Quindi, che domande fanno? Cioè come le pongono proprio? Cioè cos'è che dicono? Perché, perché devo portare la mascherina? Vabbè, un classico, no? Ma dunque, io non so se voi ricordate, in aprile c'era stata la notizia ripresa probabilmente più dalla stampa estera che il primo ministro finlandese, che tra l'altro... condivide con me solo la giovane età, lei è vero, è la più giovane d'Europa, credo. Esatto, ha fatto una conferenza stampa con le altre due ministre del suo governo giovani, che sono la ministra dell'educazione e la ministra, mi pare, della scienza e della cultura, per i bambini. E le tre ministre in conferenza stampa hanno ricevuto le domande dei bambini, che chiedevano domande che fanno i bambini, nel senso, quando questa situazione, quando tornerò a scuola, quando potrò rivedere i miei nonni. E secondo me questa è stata una cosa che, voglio dire, tra l'altro era contemporanea un po' a tutta l'attività che noi avevamo fatto di promozione di Leo e Giulia, che sono i personaggi del cartone. Leo, come il nostro Leonardo. Il nostro Leonardo Manera è finito a scherza anche in un cartone. Leo e Giulio e Giulia. Prego. Dicevo, quindi i bimbi fanno delle domande molto spontanee, che però ci permettono di trasmettere loro messaggi scientificamente solidi. Come mai non posso fare sport? Come mai la scuola è chiusa? Come mai devo fare? Allora tu, se hai le competenze, le abbiamo, possiamo trasmettere dei messaggi di educazione sanitaria. E questo secondo me è doveroso. Tra l'altro, una visione consapevole a questi comportamenti secondo me permette anche loro di aderire in maniera migliore, che poi è quello che noi ci sforziamo di fare anche con gli adulti. Chissà che è una grande iniziativa, complimenti, perché i bambini sono stati tra i più danneggiati in tutta questa situazione, infatti. Quindi prendersi cura di loro è un atto di grande buon Sì, di buon senso. Bisognerà anche capire un po' come ne usciranno, questo lo vedremo negli anni. Cioè, ci sarà una generazione che inevitabilmente cresce con la naturalezza del gesto della mascherina, del lavarsi le mani, che può essere una cosa positiva certamente dal punto di vista dell'igiene. Chissà se lo ricorderanno anche del bracciarsi. Mio figlio, per esempio, mi diceva che una delle cose che gli manca di più è proprio non avere un contatto fisico con gli altri suoi compagni. Ma guardate, queste non sono cose, voglio dire, di stretta mia competenza, ma che questa chiusura delle scuole che c'è stata, dico delle scuole durante il lockdown, avrà avuto un impatto su la formazione, ma anche sulla socializzazione e anche su altri aspetti dei bambini è fondamentale. Per cui quello che abbiamo fatto noi, e sono d'accordo con lei, Mina, a dire che è un'opportunità creare dei messaggi di educazione sanitaria che poi che poi rimangono l'adesione a comportamenti salutari, lavarsi le mani anche nella vita adulta, quindi volendo è anche un'opportunità di fare educazione sanitaria e sviluppare la consapevolezza della salute pubblica. Noi siamo professori di salute pubblica, igienisti. Questo sicuramente comporterà un cambiamento in positivo, io dico, per le generazioni future. Effettivamente l'idea del lavarsi le mani, quei comportamenti che adesso abbiamo imparato a essere fondamentali, fino a 10 mesi fa non li curavamo con questa attenzione. Se non altro, queste nuove generazioni cresceranno con l'importanza di questi gesti banali ma importanti, no? Sì, e se io forse sono un po' ambiziosa, ma anche oltre ai comportamenti, lavarsi le mani, quindi l'importanza di igiene che ci protegge da coronavirus ma da tutte le altre infezioni, quindi questo rimarrà. Ma anche forse, visto che qua proteggendo noi stessi, proteggendo i nonni, proteggiamo anche la comunità, quindi anche far passare il concetto di salute come protezione individuale ma anche protezione della collettività, che è la nostra disciplina. Noi facciamo professori di salute pubblica, io ho l'ambizione di pensare che anche attraverso azioni tipo il cartone animato possa essere un valore da far arrivare ai ragazzi in questa fase, quindi cogliendo la positività del momento, considerando che saranno adulti che si comporteranno in un certo modo anche da adulti. E così è, insomma, buon lavoro e grazie a Anna Odone, professoressa ordinaria di igiene all'Università di Pavia. Grazie per essere stata la qui. La mia università. La sua università. Dove sai che, sai che, professoressa Odone, il nostro Manera ha iniziato giurisprudenza, ma non poi. Quanti esami hai dato, Leonardo? 6 e mezzo, diciamo. 6 e mezzo, vabbè. Facciamo 7. Sì, perché può fare qualcosa per agevolare, tanto non ci ascolta nessuno, può fare qualcosa per agevolare la laurea in giurisprudenza di Leonardo Manera? Purtroppo no. Può mettere una buona parola al rettore, vabbè. Beh, il classico all'Università di Pavia, non so se l'ha fatto anche la professoressa, dopo la laurea, di fronte all'università c'è un bar storico. Ma non si è laureata a Pavia lei, credo. No, ma la conoscerà sicuramente. Vabbè. Sì, però a Pavia c'è la torta Vigoni, che è un classico di Pavia, e quando ci si laureava si andava poi lì di fronte a prendere la torta Vigoni classica di Pavia. Io non l'ho mangiata, e non la mangerai mai, questa è la verità. Vabbè, grazie professoressa Odone per essere stata con noi. Andiamo a sentire la borsa. Mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100 Milan. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. You wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Milan, propongo l'Uselin della Comare. Buongiorno Milan, in realtà il flauto dolce è il flauto a becco, ed è uno strumento nobilissimo, non solo in legno ma anche legno pregiato, e si parte dal soprano, quello viene usato nelle scuole medie, fino ad avere tutta una gamma di strumenti, dal sopranino al contralto al basso eccetera. Da sentire concerti per questo strumento di Vivaldi che sono straordinari. Buona trasmissione, tranquillo. Bravi. Caro ascoltatore, Manera è stato subissato di insulti su questa cosa del flauto dolce in legno. Però aspetta. Io permetto la divulgazione e la conoscenza di questi strumenti. Tutti ti hanno detto è pieno in legno. Aspetta, c'è un altro ascoltatore, senti qua. Manera, dammi retta, vinti un bel gotto del vin rosso, una bella graspa, e dopo ti vedi che il virus va via da solo, un baso. Vabbè. questi messaggi, dai, prendiamolo per quelli che sono, delle tavanate pazzesche. E vabbè, e Leonardo, dicevi? Dicevo che io dovrei essere elogiato perché permetto la divulgazione di queste cose, cioè di far conoscere a tutti i vari tipi di flauto dolce. Sì, invece di essere attaccato, dico, facciamo conoscere, no, attaccato il flauto, perché hai detto che non esiste in legno, e sono arrivati tantissimi messaggi a dire che esiste il legno, esiste. Ma la mia era una chiara provocazione per suscitare queste risposte. Vabbè, a proposito, caro Leonardo, tu che sei un grande artista, frequenti teatri, chiusi. Ecco. No, ma non era una presa in giro, ma perché devi pensare? Adesso parliamo di teatri con un'iniziativa. Poi dopo devo dirti di un'iniziativa, sì, anch'io. Adesso parliamo di questa iniziativa, poi ci dici la tua da grande artista quale sei. Questa era un po' una presa in giro. Allora, salute. Cosa bofonchi? Sembri la Deborah Rosciani che è andata in onda con la voce di Alvin poco fa. Allora, salutiamo Giuseppe Provinzano, siamo a Palermo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti, buongiorno. Spazio Franco, esatto. Artista che si è inventato questa idea dello spettacolo, visto che i teatri sono chiusi, il delivery show. Vabbè, lo chiamiamo in inglese, diciamo teatro sotto casa, cioè portato proprio nelle case dei palermitani a questo punto. Palermo, ma in realtà tutta la Sicilia. Noi proprio in questi giorni abbiamo appena aperto un open call, vi usiamo il termine inglese, per arrivare a raccogliere l'adesione di, noi abbiamo parlato grosso, 50 artisti che durante questo periodo di festività siamo disposti ad aderire a questo Franco Delivery Show per comporre un menù che possa abbracciare tutta la Sicilia. È chiaro, Spazio Franco è a Palermo, quindi l'eco maggiore è su Palermo. Certo. Però cercate attori, musicisti, danzatori, cantanti, performer, che spettacolo avresti in mente? Che cosa pensavate di fare? Ma in realtà è un po' una provocazione, appunto, rispetto alla chiusura dei teatri, laddove abbiamo fatto questo ragionamento. In questo momento l'unica alternativa, l'avrai sentito, è di fare le robe in streaming. Addirittura si parla di questa famosa fantomatica Netflix della cultura, no? Però nessuno ha mai ragionato su quale potesse essere un'alternativa, sebbene parziale, del live, dell'avvenimento dal vivo. Chiaro che questa non è una soluzione, certo. È una, più una provocazione, però permette in qualche modo di mantenere il rapporto dal vivo, quindi noi lasciamo liberi gli artisti di decidere all'interno del proprio repertorio quale performance sia più adatta al contesto. Sì, c'è da dire una cosa, urbano. E qui chiedo anche a Leonardo Manera, il teatro a casa già c'è, qui è una nuova forma, sarebbe, perché non si può entrare nelle case, quindi... Leonardo, è il teatro sotto casa, o comunque non so, nel cortile, sotto casa. Però la domanda è come viene retribuito, non per essere venale. Allora, ma... in questo momento. No, venale. No. Il nostro Leonardo Manera è venale. Noi siamo abbiamo preso abbiamo trovato delle risorse, abbiamo chiesto anche delle risorse alla Regione Sicilia, altre risorse le abbiamo prese noi dai ristori che sono arrivati ad alcune realtà come Spazio Franco, e abbiamo deciso di investirli in questa maniera. Uh-huh. Quindi paghiamo questi 50 artisti noi garantiamo come se fosse una startup 2-3 performance pagate da Spazio Franco. Un condominio si pagasse uno spettacolo, ecco, poi dopo è chiaro che poi... Esattamente, il bello sarebbe se poi appunto chi vuole continuare, chi si trova bene all'interno di questa formula, possa poi redare un menù con un prezzario vero e proprio, in cui il condominio famoso dice: guarda, voglio vedere questo spettacolo, ascoltarmi questo progetto, li mettiamo 15 euro a famiglia, ci facciamo il concertino sotto casa e vedere che succede. Beh, qui a Milano qualche anno fa, ma ancora viene fatto, c'era un'iniziativa che si chiamava Teatro nei Cortili, dove proprio alcuni artisti andavano a fare lo spettacolo nei cortili condominiali. Era, erano, per, erano periodi ancora in cui la gente poteva andare nel cortile con le sedie tutti insieme, però sostanzialmente l'iniziativa era analoga e ha riscosso grande successo, anche perché permetteva di creare, come dire, una socialità fra condomini che magari di solito nemmeno si conoscono, sì. Si salutano. Giuseppe, dai i riferimenti così per contattare Spazio Franco, come si allora, fa? Allora, c'è questa open call che è aperta fino a domenica, sulla pagina Facebook di Spazio Franco, ma anche sul sito spaziofranco.com trovate tutti i riferimenti, si può partecipare. Poi noi comporremo il menù e dal 21 dicembre si parte. Vabbè, in bocca al lupo ovviamente Giuseppe Provinzano, grazie. Spaziofranco.com, grazie. Leonardo, tu invece che iniziativa volevi? Domani sera al teatro, in diretta dal teatro Filodrammatici di Treviglio, ecco, l'amico Nando Timoteo ha organizzato queste serate, dove domani sera ci sarò io con Nando Timoteo, sarà una specie di intervista spettacolo, e chi vuole può assistere allo streaming alla piccola somma di 2 euro. Quindi bello. Basta cercare Teatro Filodrammatici Treviglio, pagare questi 2 euro. A che ora? Sarà orario di spettacolo. Cioè? Qual è alle 21. Sono 4 appuntamenti, uno c'è già stato, adesso ce ne sono altri 3, domani appunto sarò io, e quindi è un modo per testimoniare che siamo ancora vivi. Ecco. Anzi, consiglierei alla redazione domani di sentire Nando Timoteo per questa iniziativa che ha ideato lui. 2 euro, è una cifra abbordabile, mi sembra. Lo faremo, così aiutiamo in qualche modo, giustamente, anche un mondo che è davvero un settore che è in ginocchio, è inequivocabile questa cosa. E come hai detto tu, sono i primi ad aver chiuso teatri, spettacoli, e saranno gli adesso ultimi. Non se ne parla proprio più in generale, insomma, viene dato come dato di fatto che tristemente ci vorranno ancora molti mesi. Sì. Allora, e d'altronde lo sai, la terza ondata è inevitabile e sarà terribile, e quindi è inutile pensarci. Allora, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, ma ieri a mio figlio gli è caduto il cioccolato per terra, mia sorella medico gli fa mangialo che ti fa gli anticorpi. Questi bambini che si lavano sempre, tra qualche anno saranno meno immunizzati da altre cose? Non lo so, non sono medico. Allora, signori, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Allora, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio. Mamma mia. Allora, io sono il portavoce degli italiani veri, quelli che hanno il piedigrì di italiani, quelli che hanno il piedigrì. Mandiamo l'inno al partito super sovranista italiano. Pissi, partito super sovranista italiano, si pronuncia Pissi, P-S-S-I, Pissi. Sì, sì. Partito super sovranista italiano, ti proteggo un giorno di più, eccolo. Allora, io sono il portavoce italiani veri, non come quelli che sono nati chissà dove e poi pretendono di avere la cittadinanza italiana, perché attenzione. Si fa presto a dire italiano, ma poi sai come si cucina le tagliatelle a ragù? Altrimenti poi va a finire che il ragù ce lo troviamo dentro coi pezzi di kebab, e nella carbonara, al posto del guanciale, ci troviamo la gobba del cammello. Ma cosa va adesso, così. Proveremo a mangiare la carbonara con dentro la gobba di cammello, vediamo quanto ci mette a digerirla, eh? Poi magari cambia idea, ma lei non ha questi problemi. Perché? Lei va a cena solo nei ristoranti stellati, ma non è vero. Dove nel menù sono non c'è il prezzo. Poi... Certo, ma per lei aprono, perché lei tanto si sa, si sa a pirori che lei se lo può permettere, si sa a pirori, perché lei è uno di quelli che sta a garantiti. Dove? A pirori si sa che a lei se lo può permettere. Priori. Sì, quella roba lì. Sì. Lei è uno di quelli che ha il cordone ombelicale attaccato ai poteri forti perché è piegato. Io invece, che sono un cittadino onesto, ho fondato il PISI per difendere gli italiani veri. Onestà. Perché io non ho tempo da perdere, come onestà dice il proverbio, non ho tempo per togliere gli aghi ai ricci. Allora, sono uscito dalla Lega perché ormai la Lega non mi convince più. Mm. Una volta vedevi Salvini mangiare le costolette, le salsicce. Adesso invece si è fatto gli occhialini tondi. Tra un po' lo vedremo mangiare la Borghignomo con le salsine. Bravo Salsine. Bravo Salvini. Mangia la Borghignomo con le salsine. Era bello anche bravo Salsine. Sì. Intanto che gli altri, lui mangia la Borghignomo ormai con le salsine. Gli altri si devono accontentare della trita scelta al supermercato. Cosa vuoi dopo Milan tu? Vuoi anche un Ferrero Rocher? Vuoi anche un Moncheri? Così abbiamo fatto tombola. Cos'è? Vuoi un Moncheri? Moncheri. Allora, a proposito di tombola, quest'anno per il governo del signor Conte non potremo festeggiare il Natale, che è la tradizione a cui che gli italiani ci tengono di più. E il signor Conte ci toglie il Natale. A noi. Allora, guardi la genialata che hanno pensato questi vediamo. Del governo. Hanno detto, se sei dello stesso comune, puoi fare la cena in comune. Sì. Se non sei dello stesso comune, non puoi fare la cena in comune. Che genialata, che profondità di pensiero. Per arrivare a questa genialata c'era bisogno di tutti gli esperti, di tutte le task force, c'era bisogno di quello che ha messo in piedi tutti questi mesi. Invece... gli extracomunitari che arrivano tutti insieme sui barconi, per quelli non c'è problema. Ma cosa c'è? Commettiamo ma che a Natale ne arriva qualcuno e allora il kebab tutti insieme glielo fanno mangiare sulla nave. E allora se per mangiare con i miei parenti devo pitturarmi la faccia di nero, noleggiare un peschereccio e andare a Lampedusa, fatemelo sapere che mi organizzo. Anzi potrebbe perché non si imbarca su una nave e comincia a navigare? Poi ci sono anche tutti gli altri. Non mi interrompo. Abbandono lo studio. Geppo. Vogliamo parlare degli eschimesi? Bravi gli eschimesi. Cosa fanno? Noi dobbiamo vestirci con la pelle ecologica, le pellicce ecologiche, dobbiamo usare le copelle, e loro invece si vestono con le foche e nessuno dice niente. Se io per caso vado giù nel mare Adriatico a pescare una foca per farmi un barbecue di foca, vengo subito denunciato da qualche associazione animalista, dalla signora Brambilla, che evidentemente non ha niente di meglio a fare. Gli eschimesi mangiano le foche, si vestono di pelle di foca, sterminano le foche come se fossero i moscerini contro parabrezza e nessuno dice niente. Poco simpatico l'eschimese, estermina le foche. Povero eschimese, estermina le foche. Allora io non capisco perché quelli di pelle bianca devono essere sempre penalizzati. L'africano o povero africano, l'eschimese o povero eschimese. Ma non c'è nessuno che mai dice... povero Geppo Garosio. C'è nessuno che mai dice povero marchigiano, povero malusiano, povero valdostano. Guarda che in Val d'Aosta, col freddo che c'è, le foche potrebbero pescarle anche lì loro, in Val d'Aosta. No, e invece non possono farlo, perché altrimenti la signora Brambilla va a fare il sitino da qualche parte. Tira giù. Va a fare il sitino. Basta, ma stancato. Voglio salutare Lia Celi, la grande Lia Celi, che su Twitter ha scritto: voi ragazzacci di uno nessuno 100.000 scherzate, ma Romagna Mia è una hit internazionale tradotta in tutte le lingue, ce n'è anche una in versione in ebraico, domani la manderemo in onda. Bravo. Ecco, cosa vuoi ancora? Gli eschimesi, andiamo ancora, tutti a cantare le canzoni degli eschimesi, no, perché sennò poi la signora Brambilla va a fare i sitini in Val d'Aosta. Tira giù, domani, domani prepariamo la versione in ebraico. Tiralo giù, stavolta è stata Miriam Lucchetti che lo ha fatto entrare. Domani prepariamo la versione in ebraico di Romagna Mia che ci ha suggerito Lia Celi. Vediamo un po' come va. Gli italiani siamo sempre penalizzati. Ci vuole il partito super sovranista italiano per difendere gli italiani veri. A domani. Poi a domani. Ci sono quelli come lei al servizio dei poteri forti, ma quello è un altro discorso. Pisci anche tu, pisci anche tu, vota pisci anche tu. Super sovranista italiano. Uno, uno, uno, nessuno, uno, nessuno, nessuno,